Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Ebbene, chi non è stato sottoposto, in qualche caso controvoglia, al rito del cambio dell'aria? Estate o inverno, non importa, in molte case si spalancano le finestre, a volte per un quarto d'ora, a volte molto più a lungo. Sia chiaro, si tratta di un'abitudine salutare, la ventilazione degli ambienti è decisiva per garantire la qualità dell'aria che respiriamo e anche per evitare che negli ambienti domestici si accumuli umidità o si formino muffe, per esempio. Però capiamo tutti che dal punto di vista energetico è un disastro. Si raffredda l'aria e persino i muri se il ricambio dura troppo a lungo. Tutto calore sprecato. E allora che si fa? Ebbene, una tecnologia già ampiamente diffusa nei grandi ambienti come uffici, fiere, stabilimenti è ormai disponibile in versione casalinga, per così dire, a costi contenuti. Si tratta della ventilazione a recupero di calore, un nome che dice tutto. Ci facciamo spiegare come funziona da Cesare Maria Ioppolo, docente di climatizzazione ambientale e responsabile della sezione Ingegneria Termica e Tecnologie Ambientali del Politecnico di Milano. Buonasera Ioppolo. Buonasera a lei. Non so lei, io ho avuto esperienze terribili in giovinezza quando mia mamma spalancava tutto e si moriva dal freddo, magari a febbraio. Lei non so se ha avuto problemi analoghi. Comunque le chiedo... Assolutamente sì, ho anche avuto i problemi opposti, cioè di occuparmi professionalmente di edifici nei quali l'assenza di ventilazione creava problemi di qualità dell'aria e problemi di muffe che lei ha citato. Quindi il ricambio ci vuole, però bisogna trovare il modo di farlo senza sprecare troppo calore. Quanto più o meno si butta via con questi ricambi di aria in termini energetici? Tipicamente in edifici ben isolati come quelli che aspirano a essere classificati, io uso classi A e B che ormai sono entrate nell'uso comune, sì, per esprimere la qualità degli edifici dal punto di vista energetico, in edifici di classe A e B la parte di ventilazione può essere più del 50% del consumo energetico complessivo. Ecco, per installare una di queste unità, intanto quanto è grande, le chiedo, come un frigorifero o come un microonde? No, diciamo per un appartamento di 100 metri quadri può essere assai più piccolo di un frigorifero, la macchina in sé potrebbe essere la metà di un frigorifero o anche meno. Oltre all'unità è sempre necessario inserire un sistema di ventilazione, quindi dei canali che collegano questa unità con i diversi ambienti che vanno areati e delle bocchette, delle griglie che servono per immettere e estrarre l'aria dagli ambienti. Certo. Poi l'unità ancora va collegata con l'esterno perché deve prendere aria esterna e buttare via l'aria contaminata, viziata che va espulsa all'esterno dell'edificio. Forse una cosa che non abbiamo detto chiaramente è come funziona questa unità. Questa unità ha al suo interno dei ventilatori che consentono di garantire le portate richieste necessarie e poi uno scambiatore di calore che consente di trasferire l'energia dall'aria che espello verso l'aria invece che prendo dall'esterno e che immetto negli ambienti. Fino al 90%, se ho capito bene, sì, di questa energia. Sì, assolutamente. Fra l'altro è un recupero energetico che comprende non solo quello che è fornito dall'impianto di riscaldamento nella stagione invernale o eventualmente dall'impianto di raffrescamento nella stagione estiva, ma che nel caso del riscaldamento comprende anche gli apporti che derivano dal solare, dalle persone, dall'illuminazione interna, quindi degli apporti gratuiti che vengono recuperati attraverso questo sistema di ventilazione e recupero. Allora, proviamo a fare un esempio. Prendiamo un appartamento di 100 metri quadri, più o meno qual è il rapporto costi-benefici? Di nuovo con un po' di imbarazzo su dare dei numeri, però diciamo occorrono fra la macchina, i ventilatori, lo scambiatore e canali, bocchette e quant'altro richiesto, manodopera, potremmo dire qualcosa che è dell'ordine dei 3-4 mila euro. E tenendo conto di quelli che possono essere i consumi, di nuovo dipende poi dal clima, ovviamente tanto più la località ha un clima cattivo, tanto più veloce il ritorno, tanto più il clima è temperato, moderato, certo, e tanto più lungo è il tempo di ritorno, ma comunque tipicamente con un clima milanese sì, i tempi di ritorno potrebbero essere dell'ordine di 3-4 anni. Aggiungo solo che se ci sono fumatori in casa, o per esempio qualcuno è allergico a polveri o pollini, la ventilazione e recupero di calore è ancora più utile. Tenete poi presente che se nella vostra casa o nel vostro ufficio esiste già un sistema di ventilazione o di condizionamento, l'intervento di cui abbiamo parlato costa la metà. Una sola precisazione, infine. Perché il sistema funzioni è fondamentale che l'edificio sia isolato bene. Insomma, se ci sono spifferi ovunque, la ventilazione controllata non risolve nulla. Mr. Kilowatt torna domani e ci parla di vernici molto particolari per i tetti. Buonasera.